La situazione qui in Francia sta rapidamente evolvendo verso quella che vivete voi in questo momento in Italia. Perché rapidamente? Perché se penso alla vita che facevamo qui, io sono a Parigi, ma è più o meno la stessa cosa nel resto di Francia. Fino a mercoledì la nostra vita era normale. Bar pieni, ristoranti pieni, la metro intasata, taxi, discoteche. La vita che avete fatto voi fino a un mese fa. L'8 di marzo abbiamo fatto una grande manifestazione piena di tantissime donne e di tantissimi uomini, appunto per festeggiare l'8 marzo. Giovedì c'è stato il primo discorso del presidente Macron, un discorso che ha preso un po' alla sprovvista i francesi, che appunto continuavano a pensare che era un problema degli altri, è un problema degli italiani. Io parlavo con tanti colleghi qua e con tanti altri francesi che conosco e mi dicevano: no, ma guardate che sei ipocondriaco. No, ma Lorenzo, ma la sanità qui non è come quella italiana. Non preoccuparti, stai tranquillo, non creare panico per niente. E si sono trovati da un giorno all'altro col messaggio del presidente che annuncia misure molto blande e sostanzialmente la chiusura delle scuole a partire da lunedì. Venerdì le strade qui erano ancora come sempre e sabato i francesi sono usciti come sempre a ballare, bere, mangiare e fare festa. Salvo che proprio sabato sera alle 8 c'è stato il secondo messaggio del presidente Macron in cui si annunciava una stretta. Si andava rapidamente, diciamo, verso una situazione italiana, anche se ancora non esattamente come da voi. La cosa che mi ha stupito è che ancora domenica tutto fosse come prima. Cominciavo a vedere una Parigi un po' meno piena, ma lungo la Senna c'erano ragazzi che beneficiavano del sole per fare festa, c'erano i mercatini domenicali per comprare frutta, verdura, pesce e quelli, anche quelli erano pieni zeppi come al solito. Non si era ancora capita l'urgenza della cosa. Ieri sera c'è stato il terzo intervento. Sostanzialmente oggi siamo in situazione italiana, nel senso che ci vuole un permesso per uscire, tutti i lavori non necessari devono essere fermati, chi può deve fare il telelavoro, vengono garantiti i salari e, diciamo, il livello di vita, anche i lavoratori indipendenti a quanto pare riceveranno qualche forma di sostegno, ancora è tutto molto vago, però sembra essere l'impegno che si è preso Macron. Sono misure che hanno stupito, quanto ha detto ieri sera, poi bisogna vedere effettivamente quello che deciderà il governo e come verranno messe in pratica, però sembra che il pagamento di affitti, acqua, luce e gas saranno sospesi fino alla fine della crisi. E sostanzialmente ci siamo trovati tra mercoledì in cui tutto era normale ad oggi in cui siamo nella vostra condizione. Io sono chiuso in casa come voi. C'è stato ieri, qualche giorno prima, anche l'assalto ai supermercati. Anche qui sono stati comprati chili e chili di carta igienica, come sono stati comprati scatolette, pasta, riso. In realtà la cosa strana è che già lunedì scorso, quindi ben prima che ci fosse qualsiasi annuncio, io sono andato nel supermercato qui vicino a casa mia e nella corsia pasta e riso era già stata saccheggiata, mentre il resto del supermercato era normale, il che mi fa pensare che gli italiani che vivevano qui, vedendo quello che succedeva in Italia, hanno previsto l'effetto e si sono attrezzati prima degli altri per una possibile quarantena. Il discorso di Macron, i discorsi di Macron hanno tre caratteristiche, secondo me, di cui due mi hanno stupito. Una caratteristica è quella molto francese, cioè dell'unità nazionale contro un nemico, in cui si richiama, si usano sempre, ormai l'hanno fatto tutti, da De Gaulle in poi, almeno per quello che so io, sono due parole che colpiscono: i concittadini, quindi il concetto di cittadino che si unisce contro una minaccia, e quella di patriottismo e di unità nazionale, diciamo. E questo un po' era atteso che almeno da parte mia, che si utilizzassero queste parole che hanno un richiamo per i francesi alla loro storia, alla resistenza e a tanti altri momenti difficili di questa nazione e che quindi ha un eco nella cultura e nella popolazione francese. Gli altri due elementi del discorso di Macron, francamente, mi hanno stupito. Nel discorso che ha tenuto giovedì, la parte finale del discorso era una negazione di tutto quello che ha fatto e sostenuto lui fino a questo momento, nel senso che ha sostenuto e difeso la sanità gratuita accessibile a tutti. Lui che ha tagliato i finanziamenti alla sanità da quando è arrivato, già da quando era ministro del precedente governo, ancora a maggior ragione quando è diventato presidente, e che da 2 anni ha provocato manifestazioni e scioperi che appunto durano da 2 anni in tutto il sistema sanitario nazionale contro chiusure e taglio di posti letti. Ha difeso il fatto che non tutti tutto possa essere intermediato dal mercato e ci sono beni e funzioni che non possono essere lasciati al mercato, ancora una volta pensiamo chi lo dice, e che in generale ci sarebbe assistito a un rilancio dell'attività pubblica nell'economia. Quello che più ha cercato di liberalizzare e di rompere, come dicevamo in un'intervista precedente, il modello sociale francese. La seconda cosa che ha stupito, ed è stato il discorso di ieri sera, è stato il fatto che in quel discorso lì abbia ripetuto per 15 volte la parola guerra. Sicuramente c'è l'obiettivo di unire la nazione, unire i concittadini appunto in uno sforzo patriottico per vincere il virus. Però l'impressione è che ci sia anche una visione strategica che non è esplicitata, ma che bisognerà capire meglio. Le reazioni in realtà sono state qui in Francia di estrema unità. Mélenchon, se vogliamo guardare a sinistra, così come il Partito Comunista, pur con qualche piccola critica, hanno notato il cambio di passaggio, il cambio di tono del presidente in senso, se vogliamo metterla così, sociale, e si sono uniti allo sforzo invitando tutti a restare a casa e mettendo i propri militanti, soprattutto il Partito Comunista a quanto visto, a disposizione dello sforzo. A destra la stessa cosa più o meno è avvenuta per la Le Pen, che continua un po' come il vostro Salvini, il nostro Salvini, a fare polemiche chiedendo la chiusura delle frontiere, come se il virus avesse un passaporto. Le reazioni della popolazione, siamo stati più bravi noi, nel senso che non ho l'impressione che si sia ancora capito bene la gravità della situazione e quello che è necessario fare per uscirne. Io vedevo ancora sul lavoro gente che tossiva, gente che non manteneva un metro di distanza, le cose fatte un po' così, più o meno, se vogliamo metterla così, così come sulla metro, quando chiedevo la distanza alle persone mi guardavano in maniera bizzarra ancora ieri. La reazione purtroppo di aver fatto in 3 giorni quello che voi avete fatto in 3 settimane è stata la corsa ai supermercati e scene di panico, perché chi si rende conto della situazione effettivamente comprende tutto in un colpo, la gravità della situazione e quello che si rischia. Io oggi non sono uscito, sono in quarantena, quindi non posso dirvi sulla situazione nelle strade. So da quello che vedo che la tangenziale di Parigi è vuota e da quello che leggo anche molte parti della metropolitana. Non siamo ancora a livello d'Italia con le città vuote, però penso che ci arriveremo presto, perché il governo stamattina ha annunciato un qualche giorno, diciamo così, di pedagogia e poi una stretta, con eventuale stretta anche dal punto di vista delle ingiunzioni. La cosa che stupisce questo è che noi domenica abbiamo votato nonostante tutto. L'impressione è che il governo non avesse valutato la rapidità con cui progredisce questa malattia e che avesse pensato che tutto sommato la si potesse un po' controllare e si potesse attendere ancora un po'. In realtà il secondo turno, che doveva tenersi domenica, è stato annullato e sarà fatto prossimamente, si dice in giugno, però in realtà la data ancora non c'è. State a casa. Je reste chez moi.